questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube. Lo posso dire un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare? Lo posso dire anche quest'anno, siamo Daniele? Tornati! Siamo tornati! Ci avresti scommesso? Nulla! Siamo tornati! Intanto decidiamo, sì. È la prima puntata o la 58esima? 58, io andrei come i giornali. Come sono andate le vacanze? Sono andate molto bene, grazie le vacanze. Purtroppo sono finite, no, ma anzi sono contenta perché ritorniamo con Radio Tube. Ritorniamo con Radio Tube a parlare un po' di quello che abbiamo scovato in rete, tutti gli audio dei video che abbiamo scovato in rete tra TV, web TV, le cose che abbiamo discusso, cioè, come con l'anno la scorso di... praticamente, non sì. È che abbiamo proprio rivoluzionato la trasmissione. Ma scusa, non si dice squadra che vince, cioè non ci hanno ancora cacciato. Coppia che vince. Coppia che vince, non si cambia, 58 puntate, io però questa l'ho chiamata prima puntata, la scaletta. Prima puntata, l'ho chiamata. Però il testo prima. Più o meno assomiglia. Il testo assomiglia, sì, mi piace, io sono una signorina ordinata. Quindi? A proposito di cose che ci hanno tenuto compagnia tutto l'anno scorso, noi abbiamo avuto un nome tutelare. Sì, l'abbiamo evocato un sacco di volte. Un sacco di volte in continuazione. E non l'abbiamo mai però invitato. Non l'abbiamo mai invitato, perché abbiamo sempre detto, noi stiamo lì a controllare tutto quello che succede sui social network, su Facebook, su Twitter, tutti i commenti che si fanno, ad esempio delle trasmissioni televisive che vanno in onda durante la settimana. Sì, infatti si capiva che eravamo in vacanza dal fatto che sui social network si parlava d'altro e non e di televisione. Televisione, perché stavano aspettando. Tu, per esempio, di film, noi. Di cinema. Io sì. Parlavo di cinema, so, parlavamo di tante cose. Tu di moto. Di moto, di calcio, eccetera. Ottobre. L'esame. Vabbè. Che paura. Il nostro nume tutelare per tutta la prima stagione di RadioTube è stato Carlo Freccero. Abbiamo sempre parlato della legge al telefono. Di Freccero. No, non l'abbiamo al telefono. Adesso ti spiego perché. Tu sei arrivato un po' in ritardo. Ce l'hai intervistato senza di me. L'ho intervistato senza di te, sì. Basta. Non ti ho aspettato. La trasmissione è finita. La 58esima è ultima puntata. Anzi, facciamo che continuo da sola. Daniele Bellasio se ne va. No, ma dai. Cosa ha detto? Facciamo così, che io ti faccio sentire cosa ha risposto intanto alla domanda. È vero, esiste davvero la legge di Carlo Freccero? Oggi il mondo mediatico è molto complesso, non c'è la televisione, ma ci sono le televisioni, non ci sono solamente il net, ma ci sono tanti modi di consumare il net, di utilizzarlo. Cosa vuol dire questa cosa? È molto semplice. Quando ci sono dei gruppi, c'è il net, delle regole, eccetera, da cui la condivisione è fondamentale, ma soprattutto anche creare identità fra i social network, per cui succede molte volte che un gruppo identitario, un social network, crei ad arte, ciò che dà ad arte, anche inconsapevolmente, come il bugiardo che pensa di dire la verità, delle notizie le culla e se le fa diventare vere. Attenzione, io ti dicevo sempre questo, che ormai la complessità dei media di oggi è che esistono molteplicità di forme d'espressione, e il problema oggi qual è, che per risolvere questo problema è la competenza. Io devo dire però una cosa importante, che sono molto più ottimista rispetto agli anni passati, 60, 70, 80. Il pubblico competente, diciamo un po' così, il pubblico che sa smanettare e giocare con i media sa decifrare ciò che è vero e ciò che è falso, anche se non sempre succede, però c'è una competenza del pubblico che è molto più elevata. Purtroppo il pubblico della TV generalista, sapete invece, che è molto più, diciamo così, essendo stabile, essendo così immobile, non avendo questa mobilità dei nuovi media, è più tradizionale. Quindi lei è passato da l'autista di Silvio Berlusconi e il portinaio che le dicevano la mattina dopo se una cosa era piaciuta loro oppure no, e in base a questo doveva fare operare delle scelte sui palinsesti di Canale 5, ai social network, insomma un bel salto nella misurazione dell'audience. Esattamente, è detto, io anzi rivendico questa cosa, perché l'autista Nino di Berlusconi dettava le regole del 79, era molto importante, era la voce della verità, era la Nielsen di Berlusconi, dell'editore Berlusconi, per cui chiaramente lo arrivava, ed era molto importante soprattutto per me, che noi arrivavamo in qualche modo sempre, che tutto ciò che era elitario era bello, tutto ciò che era differenza era giusto, tutto ciò che era d'élite, d'avanguardia era bello. Ricordate, gli anni 70 sono gli anni dell'avanguardia, della differenza, e invece è stato un percorso lungo, ma questo percorso che lei ha indicato così in modo romanzesco e simpatico è anche un po' il percorso dei media di questi anni. Siamo passati da un'audience indifferenziata e indistinta a un'audience sempre più personalizzata, e dove ogni tanto ci sono dei fatti, degli eventi che riescono a creare condivisioni e a unificare tutto questo pubblico così parcellizzato, così diviso, così frammentato e così in qualche modo ormai liquido. Abbiamo il viatico del nostro nome tutelare, Carlo Freccero. Ma quale introduzione della stagione televisiva migliore di questa splendida intervista. Vedi che ti vengono meglio senza. Senza di te, stai cercando di mollarmi. Di lavorare un po' meno, se uno può lavorare un po' meno. Così è, la fregatura è sempre dietro l'angolo. No, la gioia di parlare con Carlo Freccero, che ci ha chiarito che la legge che abbiamo evocato per tutto il primo anno di Radio Tube, cioè più lo twitti meno lo vedi, significa semplicemente che il grande pubblico non ha ancora la mobilità dei social network, ha detto così, e quindi le due cose non sono esattamente sovrapponibili. Però ti ricordo che a breve avremo anche l'Auditel, tra virgolette, dei social network. Esatto, e allora siccome ci sarà l'Auditel devo dare, no, i nostri account. Certo, prima perché della parliamo pausa, di della condivisione. Pausa. Dai, dunque, et Marta Cagnola, et Di Bellasio sono rimasti uguali nonostante l'estate, e anche l'hashtag resta lo stesso, cancelletto Radio Tube. Radio Tube. Daniele, quanto sei contento di ascoltare sempre le informazioni del traffico e di sognare già di sfrecciare con la tantissimo tua moto. Ma io vado molto piano, però, che come giusto peraltro, però sì, sono molto contento. Se poi, dunque, adesso parliamo di argomenti che ci rendono felici, ma anche certo, se a me fanno un po' arrabbiare perché non ne posso più veramente. No, e poi voglio sapere cosa ne pensi. Oltre a fare un po' più di confusione, diciamo, organizzativa, faccio anche un po' il moralista. Non vedo l'ora di vedere proprio il prosieguo di quale questa stagione Radio Tube, perché già mi sento proprio tutto un friccicore. Sì. Andiamo per ordine. Per lo ordine. So che vuoi fare un po' di confusione quest'anno, però andiamo per ordine. Sì. Abbiamo deciso di parlare di bellezza, perché sì, noi guardiamo un po' quello che succede in Italia attraverso quello che ha fatto un po' discutere i social network, quello che ha fatto un po' discutere Facebook, Twitter questa settimana, e non solo perché sta per arrivare l'elezione di Miss Italia, e non tanto perché sta per arrivare l'elezione di Miss Italia, si è parlato di bellezza. Sì, si è parlato di bellezza. Bellezza che è un valore oppure no, e soprattutto se è un valore oppure no in politica. No, infatti il problema è quello, non è che si parli di bellezza, il problema è che se ne parla legata alla politica. Cioè, boh, vabbè. Dai, raccontami un po' cosa è successo, no, perché che se ne parla in politica? Dunque, intanto io ti dico subito che non ne posso più del fatto che anche se le notizie riguardano qualunque tipo di ministero, sui vari siti c'è la foto di un ministro in particolare, sempre lo stesso, non faccio nemmeno il nome, no? Cioè, tipo una notizia su alzati pedaggi autostradali, la foto è del ministro delle riforme istituzionali, dei rapporti col Parlamento. Riforma c'è la notizia sui TIR, cambiata la regolamentazione, e sui siti e sui social la foto è quella del ministro delle riforme istituzionali. Chissà, non lo so, chissà come mai. Mai. A un certo perché, punto, però, secondo te, Rosy Bindi, ecco, deve essersi fatta più o meno la stessa domanda. Sì. Rosy Bindi, che aveva già un passato molto delicato per quanto riguarda il rapporto e con l'aspetto fisico. È anche un passato da ministro? E certo, perché insomma era stata insomma definita in maniera non proprio piacevole dall'allora capo dell'opposizione, ha detto le ministre sono state scelte in base alla loro avvenenza fisica. Sì. Apriti cielo, vero farso, ma intanto sentiamo, vero farso, non lo so. Nell'inciso hai messo il problema. Ma non lo so, no. Sentiamo ma come i ministri maschi sono stati scelti? E poi aspetta che devo chiederti una cosa, okay, anche scusa, su questo, perché una domanda ce l'ho. Però vorrei intanto far sentire quello che è successo a 8:30, perché ne ha parlato Lilli Gruber con lo dobbiamo dire. Una conduttrice, peraltro. Che... Una conduttrice anche lei, insomma. In quanto a bellezza, un po' di. Nota per essere una donna particolarmente affascinante, ne ha parlato con, lo dobbiamo dire il nome della ministra, Maria Elena Boschi. Cambio tema e vengo a Rosy Bindi, alla sua collega Rosy Bindi, che ha detto che alcune donne sono diventate ministre anche perché belle. Si riferiva a lei soprattutto? Sinceramente non lo so, non so se si riferiva a me o a Marianna o a Federica, non lo so. Parliamo di Maria o Mogherini. Sì, perché ha fatto riferimento, diciamo, al governo. Trovo sinceramente un po' tristi le dichiarazioni di Rosy Bindi, trovo triste che utilizzi gli stessi argomenti che per anni Silvio Berlusconi, Forza Italia hanno usato contro di lei, al contrario, per attaccare altre colleghe. Beh, sinceramente, anche la sinistra ha usato verso le donne di Berlusconi a volte anche. Sì, ma sicuramente sapere che Rosy Bindi, che è stata anche vittima di attacchi poco carini nei suoi confronti legati a questo profilo, oggi lo utilizzi rovesciando il ragionamento su altre, sinceramente è un po' triste, perché sembra che prevalga un po' un rancore rispetto ad altre valutazioni. Dopodiché, quindi pensa che sia un po' invidia? No, io credo semplicemente, non credo che si tratti di invidia. Posso dire che questa domanda della Gruber è bellissima, sì, no? È invidia. Sì. Però secondo te perché il ministro Boschi ha detto, non so se si riferisse a me, Marianna, Federica, la Pinotti non l'ha nominata intanto. Accidenti, è vero. Lorenzin, non so. No, quindi, che poi sono belle donne. Già circoscritto. Già, però, sì. Scusa, ma veramente, ma di che cosa stiamo parlando? Questo, cioè, però è imbarazzante il dibattito pubblico. È il dibattito del momento, ragazzi. Tu mi hai chiesto passione. Degli uomini, ma relativamente degli uomini, io ti ho visto ospite. Mi hai visto? Sì, ti ho visto ospite a In Onda, siamo sempre parlando della Sette, sì. Eri ospiti insieme, insomma, a Gianluigi Paragone e a Sandro Gozzi. E io mi sono detta, però anche Sandro Gozzi è un bell'uomo. Sì. Sarà mica stato scelto Pensavo perché... Pensavo che ti riferissi a me. Non hai detto, però il mio co-conduttore, di solito ascolto il radio, non è male, non è però, male. Vabbè, non no, è male. Gozzi, hai pensato a Gozzi. Ma perché nessuno si chiede se Gozzi è stato scelto perché è un bell'uomo? Non lo so, chiediamocelo, così contribuiamo anche noi a questo dibattito esaltante che di grandissima profondità. Però avete anche voi parlato, eh? No, ma per carità, mi chiedo quando, e ti pongo un altro così problema sul piatto. I leader della sinistra europea si incontrano sì, alla festa dell'unità a Bologna, tutti con lo stesso dress code in camicia bianca, un po'. Il voltiamo pedale. Pagina, no? Dalla bellezza delle ministre alla crisi ucraina. Dalla bellezza, e non comincerò a parlare, a divagare sulla bellezza in particolare di uno di quei leader che ha turbato l'olandese, no? Che non conosce nessuno. No, non lo l'abbiamo cantato salire. Pedro Pe per una settimana. Pedro Sanchez. Nel momento in cui, insomma, tutti si presentano con lo stesso dress code, la camicia bianca, la divisa, un po'... lo dico per mia mamma, dress code, divisa, camicia bianca, tutti si vestono uguali. Si vestono uguali, forse un po' di così pedale sull'acceleratore dell'aspetto fisico, non lo so, forse lo stiamo premendo. Ad esempio, come ha commentato tutto ciò il sempre efficace, ma sempre un po' caustico, acido, diciamo, si può dire acido. Ogni tanto è acido. Massimo D'Alema. Sono stato in un grande partito e PC, non ho mai visto il segretario con la camicia rossa, diciamo. Quindi a volte vengono dette delle cretinate, diciamo, che bisogna, alle quali bisogna purtroppo, fronte alle quali bisogna portare pazienza. Io penso che, insomma, adesso il governo dovrà lavorare, i problemi del paese sono seri, i dati di oggi sull'occupazione sono molto preoccupanti e dobbiamo tutti aiutare per ottenere dei risultati. Eccolo qua, insomma, lui ha cercato di riportare il dibattito sulle notazioni politiche, però effettivamente. Non so se ci sta. Però effettivamente la frecciatina rossa. Sulla camicia rossa l'ha fatta. Adesso il dibattito è se continuare a metterla o no, bianca, visto che l'hanno messa tutti questi. Andiamo avanti. Azzurra. No, infatti io ho deciso, adoravo la camicia bianca. Ma, però cioè, al momento non è il momento. Ma non no! È il momento, sennò è troppo di moda, adesso allora azzurro. No, Pedro. Pedro Sanchez, con grande invidia delle mie amiche che erano lì e si sono fatte molti selfie con Pedro, con l'altissimo, è bellissimo. Infatti per una volta questo Matteo Renzi sfigurava un po', no? Non era proprio il centro dell'attenzione, diciamo la verità per una volta. Non so se ha un po' sofferto, perché effettivamente, insomma... Peraltro anche Manuel Valls, dall'alto dei suoi 53, 54, 52, non saprei. Sì, anche se Pedro... Beh, però voltiamo pagina, parliamo di un'altra esponente del PD. Dai, un'altra buttarella, no? Alessandra Moretti, che è particolarmente amata da un nostro collega, del quale non faremo il nome, che passa il tempo twittando innamorato di Ale. Sì. Cosa è successo? Queste... sposato, praticamente. Beh, quindi non possiamo. Non creiamo problemi. Sì, così. Si è fidanzata forse. Non si sa. Allora, Alessandra Moretti è stata paparazzata quest'estate. Insomma, non ci siamo sentiti per un po' più di un mese e mezzo, quindi dobbiamo un po' aggiornarci sul gossip dell'estate. Le cose basilari. Sotto l'ombrellone avremmo visto tutti le foto di Alessandra Moretti che così si... dedicava a effusioni con Massimo Giletti. Ah, niente proprio di meno. Che fanno anche rima. Parentesi, mi sono ricordato che c'era anche la Giannini tra le ministre da citare. Peraltro, a proposito di paparazzi, ma non volevo interrompere, volevo solo fare un po' di confusione. A proposito di paparazzi, quest'estate anche lei è stata parecchio bersagliata. Invece Ale con Giletti. Che facevano? Ma no, era un momento di tenerezza in spiaggia, non era neanche particolarmente... Tipo così, D'Amico Buffon o tipo Filippetti, quello lì, il ministro francese, Montbourg? Sì, senza rispetto ai francesi mancava lo scooter, che loro invece preferiscono anche lo scooter il e anche il casco. Ma tornando alla Moretti, se tu avessi davanti Alessandra Moretti in una trasmissione televisiva... che tu stai conducendo, non ti viene da chiederle è vero o non è vero? A me verrebbe, anche se avrei un po' di imbarazzo. Ma certo, dopo che è stata fotografata, a quel punto, anche in una, visto che il dibattito pubblico è quello, non puoi che chiederlo. Lilli Gruber gliel'ha chiesto e sentiamo com'è andata. Senta, onorevole Moretti, guardi questa foto qui. Lei non è andata in TV per molto tempo, però quest'estate si è parlato molto di lei per questa foto rubata. E qui c'è Massimo Giletti, il conduttore dell'Arena. Siete sicuri? Ma non so, lei ce lo dica, ma è amore vero con Massimo Giletti? Allora, quello che a me stupisce, no, e che diverte, è che quando guardavo, non so, 10-15 anni fa i giornali di gossip, ritrovavo le principesse, ritrovavo le attrici. Oggi invece c'è tutto. Un'attenzione particolare ai giornalisti, cioè noi abbiamo visto Travaglio in costume da bagno, abbiamo visto i bikini della è già della da un po' di tempo che sono tornate, in auge anche le principesse e le regine. Penso che questo sia un modo, forse, non so, la gente vuole sentirci più vicini, comunque la vita privata, insomma, è uno squarcio piccolino, però qui tengo molto. Quindi non ci dice se è amore vero con Giletti? Non lo dico, l'amore vero è per i miei figli, splendide creature, sono assolutamente d'accordo con Massimo Travaglio. Oh bene, Massimo Giletti, Marco Travaglio. Cara onorevole Moretti, questo lapsus freudiano l'ha tradita. È tutto finito. Non ti eri accorto che si era sbagliata, aveva detto Massimo Travaglio. È stato un momento bellissimo. A parte che l'ego di Travaglio sarà stato devastato nel momento in cui il nome è stato Travaglio sbagliato. Travaglio si sarà sentito malissimo, perché tutti si sentirebbero male, credo Travaglio un filo di più. Che si confonde lo chiama Massimo Travaglio, è stato secondo me un momento straordinario. Beh, anche il fatto che Lilli non fosse interessata a chi era, come l'ha preso, politicamente discutete delle cose, era interessata a se amore vero. Beh, carina, dai. Tre volte era una domanda incalzante proprio. Se l'è cavata o no? Tu hai fatto un gesto come di la solita retorica. La solita retorica, i figli ancora, uffa, si sa che io sono un po' cinica. Dai. E poi sbagli il nome del nuovo fidanzato. È bellissimo. Non si sa. Usi il nome del nuovo fidanzato per chiamare l'altro e dici no, ma non si sa se è vero, vabbè. Che se succede a casa diventa un... Ma dobbiamo solo dire che noi ci ritroviamo tra poco perché c'è una pausa, però dalla prossima settimana. No, abbiamo un ospite bellissimo. Abbiamo un ospite bellissimo, però intanto anticipiamo che la prossima settimana ci toccherà parlare di Ballarò con Giannini e di Floris, perché la prossima due belli sì, che arrivano la prossima. Giannini bellissimo perché mi somiglia. Accidenti, lo sapevo che l'avresti detto. YouTube. Rieccoci insieme per la seconda metà della nostra prima puntata della seconda stagione di Radio 58. Tube, 58esima puntata in assoluto. Allora, abbiamo un ospite in studio. 58esima sa più di Festival di Sanremo, però. Vedi che sono più tradizionalista. 58esima edizione, l'avete già riconosciuto dalla voce. Buonasera Enrico Pagliarini. Buonasera a voi. Era l'ultima puntata anche dell'anno scorso, ma giusto? Sì, perché così facciamo tutto. Apriamo e chiudiamo in bellezza. Liaison. Sì, una liaison. Poi con a me piace avere gli amici in studio. Enrico, allora, tu non c'eri mentre abbiamo chiuso il blocco precedente, siccome abbiamo parlato di bellezza delle ministre, diciamo di bruttezza, perché non è che tutte le ministre sono belle. Appunto. Beh, questa tornata sono tutte carine. Sai che poi ne parliamo anche un po' di Ferrari, però Enrico ha avuto uno shock quando ha visto quella ministra lì di cui parlavamo prima. Ah, ne commentava in redazione? L'ha commentato su Twitter. Sì, cioè uno shock. Preso atto dal vivo. Cioè, vuoi anche tu essere un po' moralista quest'anno? Perché una buona regola dei giornalisti è verificare la fonte. Sì. Allora uno dice, quella è bella, si vede la fotografia, certo, le immagini cantano, però... Però lui è andato, ha visto la Boschi e è rimasto un po'... Effettivamente, però ho anche scritto su Twitter, per sapere se è anche intelligente dovrei interrogarla, anche di quello non mi fido di quello che sento. Vabbè, però rilascia interviste, fa dei provvedimenti. Ma non è ancora Pagliarini. Però spiegato... Facciamo un appello al ministro Boschi. Allora, lei è preparata di tecnologia, tutti i nuovi ritrovati della Apple. Ministro Boschi, visto che mettono la sua foto sui siti internet ormai per qualunque tema... Facciamo un'intervista. No, specifico, non intervistare, interrogare. Perché l'intervista poi più di tanto non puoi andare. Cioè, se uno ad esempio dice no, io su questo non vorrei parlare, nell'intervista vai avanti, no? Nell'interrogazione invece dici no, questa è materia. E quindi devi dire, no? Ragazzi, vi riporto all'ordine perché voglio parlare un po' di quello che è successo nell'ultima settimana. Social network, tutti impazziti, come al solito si sono formati il partito pro e il partito contro, perché questa è stata, dobbiamo dirlo per forza, una settimana dedicata ad Apple. Sì. Io farei sentire un pezzettino di un video, perfetto, un pezzettino, sì. Anche perché è in inglese, quindi è proprio un pezzettino piccolo piccolo di un video che è andato in realtà in streaming qualche sera fa ed è andata così. It is great to be back in the Flint Center. As you know, we're just down the road from Apple's birthplace and home in Cupertino, and we've had some amazing history here. Today, we have some amazing products to share with you. And we think, at the end of the day, that you will agree that this too is a very key day for Apple. L'ho lasciata in inglese perché so che Enrico piace molto. Bello, comunque. Un giorno chiave per Apple, qualcosa, siamo contenti di essere tornati a casa. Allora, sto pensando questa settimana che nonostante non ci siano state novità eclatanti, perché questo va detto, poi magari invece una per alcuni potrebbe essere una novità eclatante, rimane però il fatto che tutti parlano di Apple. Tutti leggono di Apple. Tu mi dirai, Daniele, che mi confermerai che se scrivete qualcosa su internet di Apple, i click schizzano alle... Sì, quasi come Beppe Grillo. Sono le due cose. O Apple o Beppe Grillo. O anche Boschi, comunque. Sì, certo. No, effettivamente, poi se uno guarda, ad esempio, alle quote di mercato, oramai Apple rappresenta una parte non certo maggioritaria. Cioè, pensate, in alcuni mercati c'è più dell'80% di Android e magari un 15% di Apple, però quando va sul palco qualcuno di Apple c'è questo... Cioè stai dicendo che è un po' per fighetti come evento, no, c'è un però, po' questa cosa. Però anche chi non è un appolista, effettivamente è interessato a sapere che cosa succede e l'attesa che c'è prima di questi eventi è un'attesa sempre molto emozionante, e anche gli eventi stessi sono dei begli eventi, a parte lo streaming. Ecco, perché proprio questo ti volevo chiedere, l'altra sera c'è stato il dibattito di... perché i video in rete sono un po' il nostro pane per RadioTube, tutti arrabbiatissimi perché lo streaming non ha funzionato. Sì, c'è nel mondo della tecnologia c'è un dibattito tra quelli che tifano per il broadcast, come la radio, però ci sono delle antenne che trasmettono, ok? E quelli che dicono no, il futuro, ma già oggi no, ma con la banda larga che abbiamo noi in Italia, diciamo che però in questo caso mi sa che non era colpa nostra. No, è stato proprio un problema di Cupertino, come dice, Cupertino, dove c'è la sede dell'Apple. Insomma, c'è stato un problema tecnico, effettivamente. Allora, oltre ad andare a singhiozzo per qualche minuto, molti minuti, io ho sentito lo streaming doppiato in cinese, presumevo che fosse cinese, insomma, non giapponese. No, ma però, voglio dire, noi gli abbiamo lasciato dire una cosa così, en passant, però io sono curioso, cioè non è successo niente, hai detto, o poco. No, allora, gli iPhone, sono stati presentati due nuovi iPhone, però sono un po' più grandi, sono un po' più potenti, cioè, però nessuna novità eclatante. No, probabilmente la novità eclatante è stata... finalmente l'arrivo di una cosa che a Marta piace, cioè, almeno facciamo un po' di suspense, vedo che alle donne piace questa non cosa. Lo so, io sono Pedro Sanchez è arrivato sul palco, no? No, mamma mia, te l'immagini Pedro Sanchez è arrivato allora chi sentiamo è? Come chi è? Vabbè. Mi è rimasto indietro Pagliarini, vabbè, poi ti racconto. Dopo ditemi, la festa dell'unità è Mario Eleno Boschi spagnolo. Comunque sentiamo come è andato l'annuncio di questa grande novità Apple. We have one more thing. We love to make great products that really enrich people's lives. We love to integrate hardware, software and services seamlessly. We love to make technology more personal and allow our users to do things that they could never have imagined. Eccolo qua, cioè il One More Thing event. One More Thing e tutto l'ovazione, sembrava la folla messia. Quelli che vanno lì sono un po' esagerati, ci devono credere per forza. Sì, anche i giornalisti che vengono invitati vanno un po' dietro alla folla dei tifosi di Apple. Allora, fino al giorno prima, questo che è stato, di cui adesso parliamo brevemente, si chiamava iWatch. iWatch perché è sempre stato hai qualsiasi cosa, Esatto, invece lo hanno chiamato in modo molto, molto semplice Apple Watch. Cioè, che vuol dire che, adesso ti faccio la domanda da 10 milioni di dollari, vuol dire che adesso sarà tutto Apple qualcosa e non saranno più i? Infatti, di questo abbiamo parlato anche nel 2024, è un cambiamento probabilmente... per gli esperti di marketing è un cambiamento molto importante, perché nessuno tra i servizi o i prodotti che sono stati presentati, a parte l'iPhone, ma che continua la tradizione, aveva la I, quindi la I americana, che è la I di internet e non la I di IM o eccetera eccetera. Vedi che bello, sai che io non lo sapevo questo. Grazie a Pagliarini internet. Si imparano un sacco di cose. E quindi, cioè, casomai avevano un cambiamento. Mac, però mai. Questo è un po' di anni fa, però. Sì. Beh, effettivamente questo è un cambiamento. Apple Watch, quindi l'orologio, e Apple Pay, che alcuni hanno scherzato confondendo con Apple Pie, che è una torta. Torta di mele. E l'Apple Pay è un sistema di pagamento allora, io dico che è più novità questo, cioè mi piace più questo, perché Apple ha un sistema, un ecosistema molto, molto bello, più che il Watch, che è un orologio, così come ci sono altri orologi. Poi qui vedremo se piacerà o no. Pare che alle donne piaccia molto, perché è un prodotto soprattutto di design. Bello. Posso fare una domanda un po' seria? Volta. Se riesci. No, però questo fatto che pochi giorni prima la presentazione di una cosa così importante come il pagamento Apple ci sia stato il famoso caso, sempre che finisce in streaming, di una nota star, no? Televisiva, un'attrice, certo. Che le sue foto non si sa bene come sono finite sulla rete. Più di un'attrice, sì. Più sì. di un'attrice, iCloud è finito un po' sotto osservazione, proprio mentre c'era la presentazione di una roba che riguarda i pagamenti. Cioè, tu dici, se... C'è paura, quindi. Beh, allora, sicuramente il tema della sicurezza è un tema che rimane sempre importante, però nel caso delle fotografie, buona parte dei problemi sono stati determinati anche dalla poca accortezza delle persone che avevano che le hanno fatte? Sì, sì, che non intanto hanno... nel farle. Beh, certo. Infatti, e come dopo, dire, se facciamo non i moralisti tieni, quest'anno. È come dire, se non tieni i contanti in casa, anche se vieni il ladro, non te li rubano, no? Ecco, quindi se non fai le foto delle nude, foto. Questo è infatti una cosa che e va poi detto. Come dice uno dei guru della rete, Paolo Attivissimo, ricordatevi che cloud significa il computer di un altro. Sì, ah, tu le fai le foto quelle lì, Marta? Guarda, ho Marta, attenzione, vabbè, torniamo sempre. Ma figurate. No, sul tema dei pagamenti, ripeto, la sicurezza è un tema importante, però posso dire che sono dai dati che commentiamo ogni mese, ogni settimana, sono molto più sicuri i pagamenti elettronici che quelli fisici col contante. C'è molto più furto e molta più perdita di denaro contante che con i pagamenti elettronici, su questo non c'è dubbio, anche se continuo a vedere un sacco di persone in autostrada che fanno la fila dove si paga in contanti. Non capisco, ma m'adeguo. Ma lì forse c'è qualcosa più di fiscale, di culturale, sì, italiano. Più culturale, non più non lo so. Non... Siccome a proposito di autostrada, tra poco abbiamo l'appuntamento col traffico che piace molto a Daniele, che sta per prendere la patente della moto, quindi lui già sempre si sta... Sempre se passo l'esame, non appunto. È detto, devo fare l'otto, è difficile. Però con la moto il traffico lo bypassi. Sì, vabbè, ma ora che trovo il coraggio di andare in autostrada, passano, cioè sì, arriva ai 50, sì, la prendo per i 40, ma in autostrada... Quelli delle moto che sono indisciplinati passano a destra e a sinistra e se ne fregano. Adesso tanto. I motociclisti ci manderanno dei messaggi cattivi per Pagliarino. Prima del traffico voglio farti una domanda alla quale tengo molto, perché tu non sei un integralista né Apple né contro Apple, no. Sei abbastanza laico, tu provi tutto. Sì. Tanti appassionati di Android invece in questi giorni hanno twittato, in particolare l'iPhone di oggi fa quello che facevano alcuni telefoni Android 2 anni fa. Secondo te, visto che anche il nostro Peter Bescapè in regia ci ha fatto notare che insomma il costo dell'iPhone sarà piuttosto importante quando arriverà in Italia, insomma sapremo anche i dettagli, secondo te varrà la pena come oggetto o sarà soprattutto status symbol? Allora, c'è sicuramente una componente forte di status symbol, però va detto, giusto per non approfondire per troppi minuti, che Apple gode ancora di un vantaggio che è il sistema operativo. Nonostante quelli di Android dicano che il loro sistema operativo sia evoluto e comunque sia al top della tecnologia, il sistema operativo di Apple, per varie ragioni, per mille motivi, è ancora il miglior sistema operativo che è disponibile, e aggiungo un sistema operativo che si collega ad un ottimo ecosistema. Quindi per certi versi è vero che Apple sia adeguata, però è anche vero che, a parte forse in alcuni rari casi, Apple non ha mai fatto il passo per prima, ha fatto il passo per seconda, per terza, per quarta, e a volte ha indovinato poi l'usabilità del prodotto, del servizio. Quindi non è vero che sono gli altri che hanno fatto il passo per primi molto spesso. Pensate ad esempio all'NFC, altri l'avevano già integrato nel cellulare, però nessuno ha ancora fatto successo. Non è detto che lo faccia poi Apple, così come per lo Watch non è detto che sarà un successo, però sicuramente non è arrivata per prima. Se sarà un successo, sarà arrivata per seconda facendo un successo. I concorrenti all'IFA di Berlino hanno quasi tutti detto, almeno i coreani hanno detto, speriamo che Apple entri nel mercato, perché se entra Apple potrebbe essere un successo per gli orologi, per i braccialetti, per il fitness, quindi wearable devices, come si dice. Quindi loro stessi sono, cioè gli androidisti sono consapevoli della forza che ha Apple nel tracciare un mercato, comunque per creare un'esigenza. Radio Tube. Bentornati all'ultima parte del Radio Tube del sabato, ma ci ritroviamo come di consueto anche domani, cioè domenica alle 15. Intanto vi racconto un segreto, io sono in punta di piedi, perché siccome stiamo condividendo lo stesso microfono. E non con perché Daniele, è il solito tacco 12. No, perché oggi ho i tacchi bassi, ma per essere alla tua altezza, per parlare al microfono, devo stare in punta di piedi. Perché all'altro microfono abbiamo il nostro Enrico Pagliarini, che abbiamo rapito qualche minuto fa per parlare di Apple, ma io non lo voglio liberare, lo voglio tenere chiuso in studio anche per l'ultima parte della nostra trasmissione, perché Enrico, tu sei il nostro esperto di tecnologie a Radio 24, ma anche per competenza geografica di Formula 1. Sì, perché sono nato lì vicino. Io quando ero piccolino... Sei di Maranello, per esempio. No, non vicino. Io quando ero piccolino, diciamo a tiro di suono di Formula 1, quando ero piccolino, piccolino fino a 15 anni, insomma, quando studiavamo con le finestre aperte, con i miei amici, sentivamo la Ferrari e ci dicevamo andiamo a Maranello in bicicletta. E quindi noi andavamo e magari che immagine puntualmente rurale, quando si facevano le prove, perché adesso una delle schifezze di questa Formula 1 è che non si fanno più le prove durante il campionato, quando si facevano i test sul circuito di Fiorano, magari arrivavamo, faceva un giro, poi andava ai box per cambiare pezzi, aspettavamo un'ora, poi riusciva, faceva un giro, e quindi era poco divertente a volte, però... Belli questi racconti di infanzia di Pagliarini, anche da casa mia si sentono le macchine e le moto, perché invece a casa mia si sente, esatto, l'autodromo di Monza. A proposito, tu sei stato al Gran Premio e poi sei dovuto tornare due volte a occuparti di Formula 1 in una settimana. In una settimana, incredibile. Allora, un po' era nell'aria, però la notizia, direi storica, mica una notizia da poco. Dopo 23 anni in Ferrari, Montezemolo ha lasciato, o meglio, è stato cacciato, perché la verità poi è questa, insomma, è stato accompagnato alla porta. E si chiude un'era effettivamente di grandi vittorie, perché è vero che la Ferrari in quest'ultimo campionato, insomma in questi ultimi anni, non sta facendo grandi cose, soprattutto quest'anno, perché negli ultimi anni invece c'è andata quasi vicino al mondiale. Però ricordiamo che Montezemolo ha vinto 137 volte in Formula 1, ha portato a casa 14 mondiali, 8 costruttori e 6 piloti, quindi una carriera sicuramente stellata, potremmo dire. E poi dal mai punto nessuno di vista in Ferrari ha vinto così tanto come Montezemolo. No, e poi i conti dell'azienda... L'azienda è in salute, fatturati stellari, utili meravigliosi, poi c'è questo tetto alla produzione di automobili attorno alle 7000 unità, ma... Però sono andati in televisione anche lì in streaming. Sì, perché appunto lì funzionava. Torniamo abbastanza ai nostri video, perché tutti hanno condiviso questi video, visto in televisione, visto in streaming, i video della conferenza. Io vorrei proprio prendere il momento dell'addio, del saluto ai giornalisti di Luca Cordero di Montezemolo, perché secondo me, almeno da spettatrice, io ho avuto la sensazione che desse un po' il senso dell'atmosfera che si respirava. Poi lo chiediamo a Enrico, che era lì, ma sentiamo questo video di Luca Cordero di Montezemolo che saluta i giornalisti. Addio. Grazie a tutti voi. Ogni tanto avete scritto delle cazzate, ogni tanto ve l'ho fatto presente. Ogni tanto ve l'ho fatto presente, però grazie anche a voi, mi mancherete, mi mancheranno le vostre cazzate, mi mancheranno alcune cose che mi hanno fatto arrabbiare, però questo ha fatto parte di una vita di cui ringrazio Dio di averlo potuta fare, perché ho avuto un privilegio e un onore straordinario di essere il leader di questa azienda. Grazie a tutti voi. Come lo commentiamo, Enrico? Io l'ho sentito un po', allora, sì, cordiale, simpatico, ma emozionato. E comunque, forse però un qualche sassolino se lo voleva. Molto emozionato, nonostante in quell'occasione non si sia spinto con l'emozione come è successo invece in azienda. Mi hanno riferito che invece in azienda qualche lacrima in più, cioè in più, qualche lacrima è scappata, perché lì non è scappata qualche lacrima. Allora, va detto che in questo caso si stava rivolgendo alla stampa sportiva, quindi a quel gruppo non vastissimo di giornalisti italiani che segue tutto il mondiale di Formula 1, quindi pensate, persone che alcuni di questi sono cresciute con Montezemolo, esatto, cioè lui li conosce molto bene, quindi per 20 anni più, quindi gli può dire avete scritto cazzate, quindi gliela può dire così, esatto, sì, in quel caso io direi che ha anche un po' scherzato, sì. Va detto che effettivamente durante questa chiacchierata di un'oretta con i giornalisti, e a fianco a lui c'era Marchionne, che prenderà le redini in Ferrari dal 13 di ottobre, i due hanno ostentato un cordiale rapporto che in realtà si è deteriorato molto negli ultimi anni, quindi sappiamo tutti ma che non c'è questo buono. Ma Marchionne andrà come Montezemolo proprio lì ai box al ma paddock. Non ci credo proprio, neanch'io ce lo vedo però infatti. Chi lo sa, con la cuffia rossa io non ci credo, ma lo vedremo, insomma. Comunque dal punto di vista della gestione della cosa, alla fine in questa conferenza stampa Montezemolo è stato un un buon protagonista, no? Sì, sì, sì. Se l'è cavata, sì, direi. Un signor, sì, sì. Sì, no, anche secondo me. Non c'è dubbio. E sì, Marchionne sì, gli ha un po' lasciato il campo di gestirsela. Sì, sì, sì. Marchionne, secondo me, soprattutto nella prima parte, era proprio lì che aspettava, diceva, vabbè, tanto di le ultime tue cose, poi dopo ce ne togliamo. Però vedi, è bello perché noi ci condividiamo e facciamo ascoltare i video, mostriamo alla radio i video della settimana. E anche le facce, che non si vedevano. Che non si vedevano. Però, vedi, se c'è qualcuno, ci racconta anche gli umori che ci sono sotto. No, abbiamo... È stato comunque un momento emozionante per tutti, comunque è un momento storico. Cioè, beh, certo. Stiamo sì, parlando sì, della probabilmente del brand più noto. C'è magari qualcuno non ci crede, c'è qualcuno, cioè più di qualcuno, che anche nei paesi occidentali non sa che cos'è Google. No, certo, che però è la Ferrari... famosissimo, ma io direi che nessuno sa non sa che cos'è la Ferrari. Certo, tutti sanno che cos'è la Ferrari. Un po' come la mia Inter, che no, è famosa allora, in tutto il mondo. Esatto. Adesso, mentre io e Bellasio ci diamo gomitate, testate con la cuffia. Ho chiesto scusa, sì. L'hanno sentito anche i telespettatori. Mi hai dato una cuffiata in testa. Ma a proposito di Inter, sì. Enrico, tu non sei tifoso, vero? No. Tu no, non hai sentito questa cosa, che non l'hai sentito, questa cosa... Peter Bescapè che squadra tiene? Peter, di che squadra, di che squadra Milan, sei tifo? Quell'altra. Lui è tifo quell'altra, del Milan. Quella di Rocco, quell'altra, lo quella perdono, di tuo figlio. Ebbene sì. Ma questa è stata la settimana di Ricky Gianco, altro che Luca Cordero di Montezemolo, fiato alle trombe, c'è il nuovo inno, non ho capito a che livello di ufficialità è questo inno di Ricky Gianco dell'Inter. Ce l'abbiamo al telefono o abbiamo l'inno? Abbiamo l'inno, eccolo qua. Nata in quel ritrovo degli artisti, lo si sa così sono gli interisti. Fuori il cielo era stellato e i colori ti ha ispirato. Perché è tutto vero, Lì era lì a Piazzale Galombarda, un ristorante famoso, non so se si può dire, però insomma erano lì e lui è la cronaca di Ricky Gianco, sentite che bello. No, ma io adoro Ricky Gianco, è simpaticissimo, ha anche condotto una bella trasmissione qualche anno fa su Radio 24. Però, insomma, vabbè. Cioè, hai qualcosa da dire sull'inno? No, poi no, ricorda dei fatti fondamentali che è giusto che anche Pagliarini conosca. Non siamo mai stati in Serie B, cioè la nostra storia si è evoluta tutta in Serie A. E poi c'è quella cosa lì particolare nostra, quella magica tripletta che chiama... Adesso forse arriva? Non so fare il DJ bravo. È che non sai beccare l'inizio della... L'intro. Beh, eccolo qua, ce l'abbiamo. Nera azzurri siamo noi, ma che ne sapete voi, della logica follia, dell'alone di magia, nera azzurri siamo noi. Enrico, cosa dobbiamo commentare? Sarà per me una luna. Ricky Gianco è interista, o no? Certo, ma certo. Io non avrei dubbi. Però ci sono dei parallelismi tra la Ferrari e l'Inter. Oh, perché diciamolo. È perché sono comunque pezzi di storia in uno sport e nell'altro, e comunque se uno poi va a vedere i risultati, la grande Inter ha avuto dei risultati incredibili. Poi negli ultimi anni... Sì, mi tocca dire non proprio con lo stesso monopolio della Ferrari in certe stagioni, però diciamo, poi quando ci diamo, ecco. Sì, sì, sì. E negli ultimi anni... E negli ultimi anni, come Luca Cordesso Marchionne, si nomina anche presidente del... Beh, prende ragazzi, anche la presidenza dell'Inter. Ma... Dopo questo momento Bar Sport, sì, che mi è piaciuto molto, molto, però dobbiamo salutare gli ascoltatori. Dobbiamo salutare intanto Enrico Pagliarini, tempo, che ci ha fatto compagnia per la prima puntata della nuova stagione, nonché la 58esima puntata di RadioTube. Devo ringraziare anche Peter Bescapè, che ci ha dato anche la possibilità di ascoltare questo da milanista. Vale doppio. Vale doppio. Vabbè, noi ci ritroviamo domani alle 15 con la puntata della domenica di RadioTube. Bella. Avete ascoltato la 58esima puntata di RadioTube.